Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dani Alves. Attenzione verso Mandžukić dall'altra parte, colpo di testa, miracolo ancora! Rete! Mandžukić ribadisce in rete! Dopo la respinta esplode il Juventus Stadium, Juve in vantaggio. Bonucci anche va dentro, parte cross, Subasic. Attenzione Dani Alves al volo, prova la botta, rete! Rete! Che gol! In stato di grazia Dani Alves, 2-0. In stato di grazia! Lo scambio in velocità, attenzione! Palla in mezzo e c'è il gol! E c'è il gol stavolta! Stavolta ha trovato lo spiraglio, proprio Mbappé! Non c'è arrivato Buffon qua! 2-1! Tanto Pjanic della bandierina! Se la prende comoda! Mi dicono che è stato esonerato Pioli! Tra poco nello studio tutti i dettagli! Ci collegheremo con il nostro Marco Barzaghi che ci darà i dettagli e qualche particolare in più su un'altra notizia della serata, quella che riguarda l'Inter e l'esonero di Stefano Pioli con comunicato ufficiale dell'Inter delle 22:30 e la panchina affidata a Vecchi, allenatore della Primavera che già aveva guidato l'Inter nella partita contro il Crotone. Di sinistra, uno contro uno con Raggi, la dà a Quadrado che la scambia ancora lunga, la mette ancora dentro, è ancora buona, è ancora buona, poi la respingono loro, non ci crede Alessandro, la palla finisce in fallo laterale ma è nostra. E vi va vicino anche Allegri a dirgli qualcosa. Due notizie insieme. Esonerato Pioli e adesso andiamo ovviamente, sì, c'è la Juve va in finale e invece c'è la fine di Pioli. Ve l'hanno fatto proprio a orologeria per non far parlare della Juve. Di Masu. Ci sta, ragazzi, perché il calcio ci piace così tanto? Perché è strano, perché è come la vita, è qualcosa di imprevedibile, è qualcosa in cui tutto può succedere. Ieri sera sono successe due cose molto importanti. Mentre la Juventus si stava qualificando per la finale di Champions League, e questo in qualche modo era scritto al di là delle scaramanzie, delle parole di rito, ma una grande Juventus, è una squadra matura e lo ha dimostrato anche ieri sera, ha preso quel golletto che le ha tolto, che ha tolto a Buffon imbattibilità, ma come ho detto molte volte non è che sia poi così un male andare verso la finale, che anche qui leviamoci ogni sospetto e ogni dubbio, sarà con il Real Madrid a Cardiff. E stiamo sognando quel giorno. Meglio andarci con un golletto preso e con quel record che è crollato, perché meglio adesso che dopo. Però, appunto, mentre la Juventus si stava qualificando per la finale di Champions League, dall'altra parte del mondo, in Cina, si decideva l'esonero di Stefano Pioli, che non è più l'allenatore dell'Inter, torna Vecchi per la seconda volta dopo che era stato esonerato De Boer per una giornata con il Crotone, lo ricordiamo, poi era stato preso Pioli che era partito fortissimo, e poi ieri c'era stata anche mamma, tra poco avremo i dettagli della stramba giornata dell'Inter, una lavata di capo di Zanetti, Ausilio, ai giocatori che sono francamente indifendibili molto più di Stefano Pioli. Ebbene, via Pioli c'è Sabatini, ex Roma, ex Dioscuro della Roma, a capo di tutte le operazioni calcistiche di Suning, Inter compresa. Questo può voler dire molte cose che analizzeremo. In più, oggi, adesso, arriva la notizia, per cui si profila un nuovo caso Del Piero riguardante un altro grande numero 10, cioè Francesco Totti, che ha detto pochissime parole e sono le prime che gli sentiamo dire dopo che Monchi ha detto: ma come, tutto scritto, Totti smette, spero che venga a fare il dirigente, sarei molto felice. Era stato scritto su Twitter, era stato già ventilato, sarà l'ultimo anno di contratto. Poi è arrivato lo spagnolo che fresco fresco è uscito con queste dichiarazioni. Totti non aveva ancora parlato, e tutta questa vicenda curiosa e misteriosa, ma come lo è tutto questo momento e come lo è il gioco del calcio e la vita. Ebbene, Totti ha detto: non so se il 28 sarà il mio ultimo giorno da calciatore. Evidentemente ha ancora voglia di giocare. Chiaramente non lo farà più per la Roma, lo farà per qualcun altro. In questa giornata così convulsa, così interessante, così piena di temi, 800240024 è il numero verde. Vi comunico che due cose: la prima è che oggi non potete vederci con la webcam, e la seconda, che è la conseguenza, è che perché siamo a Tutto Food, beati noi, con Valeria Bernardi qui in regia con me, con tutta la squadra di Radio 24, con Edoardo Lavezzari che mi sono strappato dalla redazione, mentre Giorgio De Luca è rimasto negli studi centrali di Milano. Siamo a Milano, ovviamente, alla fiera di Milano, anzi, se potete venite a trovarci, ci farebbe molto piacere di persona. E quindi qui siamo oggi e qui saremo domani. Potete ovviamente sentirci e dovete ovviamente chiamarci su questa vagonata di temi che abbiamo. Intanto saluto e ringrazio Marco Barzaghi da Mediaset Premium, prima evocato, prima ricordato ieri sera negli studi di Mediaset, in questa serata che definire strana è poco. Ciao Marco. Buon pomeriggio a tutti. Raccontami sinteticamente la giornata dell'Inter. Quella di ieri è stata abbastanza convulsa, con la dirigenza che aveva tenuto a rapporto la squadra chiedendo delle giustificazioni all'ultima sconfitta inspiegabile, senza nessun tipo di quasi di voglia da parte della squadra di Genova, con la difesa da parte dei dirigenti italiani di Stefano Pioli. Poi il dietro front da Nanchino, la decisione di richiamare Stefano Vecchi come fu per De Boer, sostituto temporaneo per le ultime tre partite, di dare questa scossa ulteriore a una squadra per provare almeno a avere una reazione onorevole in queste ultime tre partite. Quindi poi il comunicato arrivato alle 22:30 dell'esonero di Stefano Pioli, amareggiato che non si aspettava un po' neanche lui, neanche la dirigenza italiana, questa decisione da parte di Suning. E poi la sveglia di oggi con la nomina di Walter Sabatini, nuovo coordinatore tecnico di Suning, ma come ha anticipato anche lui non vivrà in Cina, ma bensì probabilmente a Milano, e quindi avrà anche molta voce in capitolo nelle cose di casa Inter. Quindi tanti cambiamenti, e penso che siano tutti anche in direzione per cercare di convincere Antonio Conte a venire all'Inter. Marco, io ti ringrazio, ti lascio lavorare, che hai le mani piene, come dice mio amico Dan Peterson. Come sempre. Sentiamo la voce di Sabatini dalla Cina. Io ho un mio pensiero, un retropensiero. Pioli è stato esonerato dopo il 7-1 con l'Atalanta, quando si è cominciato a parlare di Conte. Comunque, sentiamo Sabatini. Non voglio che ci sia internazionali di Milano da una parte, Gianzurri Suning da un'altra parte, con una divisione sia geografica che tecnica, perché le due squadre devono essere sinergiche e essere molto vicine. Cioè, i problemi del Suning devono essere anche i problemi dell'Inter e viceversa. Deve essere una grande famiglia, un grande gruppo di lavoro. So che questa è un'idea molto ambiziosa, ma so che i dirigenti del Suning ce l'hanno in testa e la vogliono perseguire, e io li aiuterò molto. Cioè, se una domenica o un venerdì, dipende quando è il calendario, l'Inter vince e il Suning perde, non è stato un buon risultato. O viceversa, noi dobbiamo puntare al grande slam domenicale. Questo è Sabatini, andiamo col traffico, c'è già in linea, so che ho ottimi gusti in fatto di letture, una delle mie penne di riferimento, Maurizio Crosetti, arriverà anche Pardo, e cominceremo a così a intrecciare questi due argomenti: Juventus in finale e nello stesso momento Pioli esonerato, Inter che sta provando a forse costruire qualcosa, costruire una società, non so se nel modo più ortodosso. Traffico. Dei giocatori importanti, ma così come ha giocatori importanti in quelli che è lo zoccolo duro della squadra, da Barzagli a Listeiner a Buffon a Chiellini, sono giocatori che gli manca un punto domenica a Roma o tre la prossima per vincere il sesto scudetto, e non è da poco. Quindi credo, io sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché sono straordinari sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista morale. Io fortunatamente la valutazione che do a un giocatore dal 30 di agosto poi la ridò al 30 di giugno l'anno dopo e non è che la cambio. Straordinario è anche lui, Massimiliano Allegri. Maurizio Crosetti, ti ho già annunciato, come avrai sentito. Sentito, grazie caro. Senti, è straordinario. Senti, il calcio è straordinario, dicevo prima esagerando, facendo della inutile prosa, che il calcio è così strano, come ci piace così tanto perché è strano come la vita, no? Tutto può succedere e ieri sera si sono intrecciati la Juventus in finale di Champions League e l'Inter che fa il ribaltone dalla Cina. Ma perché basta cambiare l'articolo, no? Si passa dalla finale al finale senza dover magari cambiare il finale in fine, e non è solo un gioco di parole, è chiaro che non è una fine questa, anche se metaforicamente è una brutta fine di campionato, è una brutta fine di un brutto inizio, di un difficile inizio, che si sembrava essere un inizio con rincorsa, un po' più solido. Questo di Suning all'Inter e invece no, invece è arrivato questo esonero intempestivo, maledetti loro per l'ora giornalistica, perché non si caccia un allenatore alle 11:30 quando Crosetti ha già fatto il pezzo di appoggio della Champions e deve già spostare il blocco, quindi non si provino mai più, il prossimo allenatore lo caccino a mezzogiorno, l'hanno fatto apposta. Proprio è chiaro, no? C'è una coincidenza temporale chiarissima. Beh, ci sono ore anche giuste e sbagliate per morire, no? Per esempio Papa Giovanni sì. morì a un'ora perfetta tanti e tanti anni fa e i giornali poterono celebrarlo come era giusto, e ci sono altre cose che purtroppo oltre all'orario di chiusura non vanno fatte, però forse avevano il fuso, io scherzo naturalmente, il fuso cinese probabilmente. A vedere, raccontare la avversaria della Juventus in finale di Champions League questa sera a Madrid c'è Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao ragazzi, come va? Molto bene, stiamo discutendo di massimi sistemi, no? Che tu hai vissuto ieri sera, che noi tutti abbiamo vissuto ieri sera. Da un lato la Juventus bellissima, invincibile, con grande garra, sono contento che abbia preso quel golletto, che preferisco vada a Cardiff senza quel record sulle spalle Buffon, ma questi sono ragionamenti miei un po' contorti. Ebbene, mentre la Juventus andava in finale, l'Inter faceva la rivoluzione. Secondo te è un anticipo di futuro, si è voluto giocare d'anticipo sul futuro o si è voluto dare un segnale forte della presenza di Suning? Cominciamo dall'Inter e partiamo da lì. Cos'è successo secondo te? Perché adesso? Perché tutte e due le cose, nel senso che poi comunque non è che in queste tre partite possa cambiare molto, al di là del fatto che l'obiettivo Europa League non credo che scaldi tantissimo, ma al di là di questo, partendo anche dal presupposto che realmente invece questa mossa sia stata fatta per dare una spezzata e provare a fare 9 punti e provare ad andare in Europa League, credo che sia più che altro un discorso di prospettiva, di presenza di Suning all'interno del mondo dell'azzurro, è un segnale molto forte di un cambio deciso di rotta, e non a caso nelle stesse ore, insomma, gli stessi minuti poi si cominciano a parlare di Sabatini, si cominciano a parlare anche di altri scenari, quindi mi sembra francamente un segnale forte di una proprietà forte che probabilmente si era fidata nell'andare, sapevo che De Boer era ancora sulla gestione Tohir. Senti, sei d'accordo se dico che Pioli ha cominciato ad essere esonerato il giorno del 7-1 con l'Atalanta quando si è cominciato a parlare di Conte? Sì, però ti dico pure che paradossalmente, insomma, per me Pioli ha fatto abbastanza bene, non si può dire che abbia fatto male, e credo che sia destinato a panchine comunque di buon livello. Non penso che esca con le ossa rotte da questa esperienza. Certo, come eravamo messi 2 mesi fa, è una grande occasione persa, più che altro. Siamo per Pioli, era l'occasione per un rilancio clamoroso, per una vetrina clamorosa che certamente nelle ultime 7 partite si è offuscata, e poi chiaramente l'esonero ha fatto il resto. Sì, 7-1, l'ombra di Conte, però questo in realtà Pioli lo sapeva dall'inizio, nel senso che Pioli, quando è andato a prendersi giustamente questo incarico, sapeva che aveva davanti a sé un Everest da scalare, sapeva anche che l'aspetto più paradossale di questo Everest era che più riusciva ad andare bene, più faceva venire l'acquolina in bocca al gruppo Suning già dalla prossima stagione, e più rischiava di essere comunque sostituito da un profilo con un palmarès diverso. Non c'è niente da fare, insomma, gli allenatori sono fatti a categorie. Finché non riesci a fare un'impresa di un certo tipo in un grandissimo club, rimani sempre un allenatore bravo, come certamente è bravo Pioli, ma che agli occhi di Zhang evidentemente non è adeguato. Ecco, allora Conte, che viene considerato tra i migliori allenatori del mondo, e lo è certamente, non ha quella corona europea che Allegri potrebbe invece meritatamente, con tutti i meriti del mondo, infilarsi in testa. Maurizio Crosetti, mi scappa un'ultima domanda per te: come gestirà Allegri il cammino da qui a Cardiff? A cominciare da Roma, passando attraverso la Lazio, finale di Coppa Italia. Direi emotivamente al contrario di come lo avrebbe gestito Conte, cioè cercherà di fare sfiatare questa enorme pentola a pressione che diventerà la Juve. Del resto Allegri ha questo stile e riesce a farlo, cercherà naturalmente di dosare forze e giocatori, e sperando che nessuno naturalmente si faccia male, che non sia grave l'infortunio muscolare di Khedira ieri sera. Cercherà di non ossessionarsi all'Olimpico contro la Roma, ma di più contro la Lazio, perché contro la Roma si può pure perdere, non si perde lo scudetto, mentre contro la Lazio, se si perde, si perde la Coppa Italia. E gestirà le cose nel suo stile, cioè non dando troppa importanza a cose che importanza non ne hanno, tipo i moduli, tipo i tempi delle vittorie. Credo che comincerà a pensare al Real Madrid davvero dopo la finale, quindi diciamo intorno al 20 di maggio, e questo è giusto, perché la Juve in passato ha perduto alcune coppe malamente per troppa pressione, per esagerato pronostico, per gambe che tremano. Questa volta non succederà. La Juve ha 3 giocatori che la Champions l'hanno già vinta, Khedira, Dani Alves e Mandzukic, ha giocatori campioni del mondo, Barzagli, Buffon, ha una generazione di trentenni all'ultima grande occasione, con una ferocia, una fame che gli altri non hanno, e ha un sacco di fantasia sudamericana, ha anche ottimi artigiani della qualità, senza sedersi mai sul sofà. E quindi io credo, come ho già detto la settimana scorsa e ribadisco, mi spiace per se qualcuno si toccherà ovunque, ma secondo me la Juve è favorita per la finale e vincerà la Champions. Ecco, è quello che volevo chiederti. Cioè, l'ho già detto qui. Ma hai evitato la domanda scivolosa. No, lo ribadisco perché ritengo la Juventus, semplicemente la ritengo superiore a tutti, al Barcellona e anche al Real Madrid. Sì, su una cosa non c'è dubbio: è una squadra molto migliore rispetto a quella che andava ad affrontare con molta paura la finale con il Barcellona non più tardi di 2 anni fa. Sì, l'unica cosa da dire è che c'è da 44 anni in fila per 6 con il resto di 2, e forse le 2 sono le coppe che poi la Juve ha vinto, perdendone però 6 e vincendone 2, c'è in effetti un po' di sfiga volante. Da Belgrado 77 a Berlino 2015, oggettivamente c'è qualcosa di oscuro nel rapporto tra la Juve e la Champions, ed è l'unica ombra vera, oltre all'ombrone gigante di Cristiano Ronaldo e di Sergio Ramos e compagnia cantante, che possa un pochino ombreggiare, appunto tinteggiare di scuro il mio pronostico. Ma vedrete che neanche la sfiga di 44 anni riuscirà a scalfire questo cammino, che è giusto concludere con la Coppa, perché i più forti alla fine è giusto che vincano. Ma certo, grazie Maurizio. A voi, ciao. A molto presto, ciao Cross. Dicevi, Pierluigi? Stavi per aggiungere? Sono d'accordo sul fatto che soprattutto la personalità di questa squadra essere cambiata negli ultimi 2 anni, al di là dell'aspetto tecnico, La Juve banalmente è più forte davanti ed è forse più debole a centrocampo rispetto alla Juve di anni fa, perché ha perso giocatori come Pirlo, come Vidal, come Pogba. Sì, però posso però, dirti in teoria, no, ecco, posso esatto, dirti in teoria. Più in teoria sì, che in d'accordo, pratica. D'accordo. Questo ti stavo dicendo, nel senso che poi alla fine in realtà, questo se andiamo a confrontare le figurine, premesso che Pjanic e Khedira ovviamente sono due grandi giocatori, se andiamo a confrontare le figurine forse è così, se andiamo invece a parlare di quei valori immateriali che compongono tecnico e psicologico di una squadra, mi sembra che la Juve sia veramente al culmine di un percorso. Io sono abbastanza d'accordo con Kroos, ovviamente è equilibratissima la finale, poi partendo dal presupposto che ci vada, come tutti crediamo, il Real Madrid è equilibratissima, è roba di 51-49, però ecco, diciamo più drammaticamente dico, non è sfavorita la Juve, secondo me il 51 della Juventus? Ad oggi sì, poi bisognerà vedere ovviamente che dire, i recuperi, le condizioni fisiche, però insomma sì, io credo che la Juve abbia dimostrato delle cose enormi in questa Champions League, soprattutto col Barcellona ovviamente, l'autorità con la quale si è liberata del Barcellona secondo me è abbastanza significativa. Sì. Il Real Madrid cerca un'impresa anche questa storica, perché sarebbe la prima a fare back to back, cioè vincerebbe due anni di fila la Champions, quindi nell'età della Champions League. Quindi anche il Real ha una sua piccola impresa davanti, poi è una macchina da gol, perché ne ha fatti 150 in stagione, arriva con Cristiano Ronaldo nel momento migliore. Cristiano Ronaldo ha fatto numeri alla mano la peggiore stagione da parecchi anni a questa parte, sì, una stagione da 30 gol, che sono numeri da essere umano e non da marziano, però sì, arriva però quando con 8 gol nelle ultime 3 in Champions, capito? Quando conta il campione c'è sempre. Fabrizio da Cuneo, poi salutiamo Pierluigi Pardo, lasciamo andare a lavorare stasera alla telecronaca di questa semifinale. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, mi dispiace interrompere questa soave musica, perché io sono juventino e devo parlare dell'Inter. Però vabbè, siamo qui apposta, dell'Inter, di Totti che dice, si profila, dicevo, un'altra vicenda del Piero, non so se il 28 sarà il mio ultimo giorno da giocatore. Secondo me va avanti da un'altra parte. Comunque, dica. Allora, la prima, due cose velocissime. La prima per gongolare un po', nel senso che io fui uno dei primi a chiamare quando arrivò Pioli e dissi: è inutile chiamare gli allenatori forti, bravi e fenomenali, tanto non manca la società, è puntualmente arrivato. Ma al di là di questo sarà anche un po' di fortuna, chiamiamola così. Dicevo, dove vuole andare l'Inter, secondo me, fino a quando avrai dei giocatori che a 22 anni scrivono libri, insultano i tifosi, vanno in giro con l'hammer dorata e la società allora, non fa allora, nulla, glielo dico subito, io la mossa di ieri la vedo come, non so se Pardo è d'accordo, come un tentativo di anticipare i tempi nella costruzione e nell'edificazione della società, perché è arrivato col ruolo che abbiamo detto Sabatini. Sta per arrivare Lele Oriali e verrà definito un organigramma societario e quindi si è cercato forse di giocare in anticipo sui tempi. Pardo, sei? No? Allora lo saluto, lo ascoltiamo stasera dopo torna? Ah, mi fanno segno che dopo torna, va bene, comunque adesso abbiamo la borsa. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Tutti convocati. Allora, so che il centralino a Milano, nella nostra redazione centrale, sta esplodendo, ma tanto avremo molto tempo anche domani per parlare di questi temi, che sono tanti, sono scottanti, sono belli, sono strani, sono eccezionali per la loro contemporaneità. Pierluigi Pardo, per qualche altro minuto io saluto e ringrazio oggi davvero di cuore la bandiera, la faccia, il capitano, l'anima storica dell'Inter, Beppe Bergomi. Ciao Beppe. Ciao Carlo, ciao Pier, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie davvero per averci concesso oggi, credo tu sia uno dei personaggi più gettonati d'Italia, qualche minuto. Come valuti quanto è successo nelle ultime ore, zio? Ma guarda, quando mi avete chiamato ho cominciato a pensare un po', nel senso, io penso sempre che ci sia un vuoto di potere all'interno della società, dovuto anche alla distanza, no? dove sono i proprietari di Suning, a Nanchino, e penso anche che in questi due mesi, perché ormai sono l'Inter che non vince è da tanto tempo, e non c'è stata mai nessuna comunicazione istituzionale. Io penso che loro ragionino come un'azienda a livello manageriale, nel senso che vedono ancora la possibilità di raggiungere un obiettivo, no? Che è l'Europa League. Allora cosa fanno? Qual è quello da mandare via più facile? È l'allenatore. L'unica cosa è che qui c'è un'esposizione mediatica e penso che l'Inter non aveva bisogno di un'altra brutta figura, perché io la vedo come una brutta figura mandare via un allenatore, un professionista serio. Io lo conosco, forse lo voglio difendere perché è una persona, un professionista serio, e mandarlo via a tre giornate dalla fine non mi è sembrato giusto, ecco. Io vedo questo in questo momento. Sai, poi ci sarebbero tante altre cose da dire, però non voglio rubare del tempo, nel senso che anche adesso tu fai il nome di Sabatini è un rischio che va a delegittimare chi già c'è lì, non so, un Zanetti, un Ausilio, perché io capisco, non so, vado io Beppe Bergamo a fare il direttore sportivo, che non l'ho mai fatto, loro ho bisogno di un supervisore, ma questa gente qua è gente che è capace, che è lì, che lavora da anni, che lavora per l'Inter. L'Inter ha una sua identità, una sua storia, un suo valore, che tante volte uno vuole innovare, ma si deve rendere conto che innovare vuol dire anche rendersi conto della storia che è alle spalle, e quindi valorizzare chi hai all'interno, secondo me è fondamentale, ecco. Io ho cercato di riassumere e vedo questa situazione così in questo momento, sì. Che è, insomma, è un'ulteriore brutta figura che mi dispiace tanto, perché noi siamo completamente diversi da tutti gli altri tifosi. Io ti chiederei anche che effetto ti fa vedere i giocatori che giocano con la tua maglia e con quell'atteggiamento, ma lascio la parola a Pierluigi Pardo. No, fammi rispondere. No, perché ho avuto una discussione anche l'altra sera al club con Leonardo, perché dicono sempre che c'è bisogno di qualcuno in società forte che ti faccia sentire. Io quando andavo in campo non avevo bisogno di nessuno. Io mettevo sulla maglia, andavo dentro, rappresentavo questo, il senso di appartenenza, davo tutto quello che avevo per la maglia, non pensavo ai soldi, non pensavo a niente, non avevo bisogno di nessuno. E allora, ma tu sei Beppe Bergomi, italiano, questi sono stranieri, hanno bisogno di... Io non lo so, io sarà cambiato il mondo, non lo so cosa ti devo dire, però io non ho mai avuto bisogno di nessuno che mi dicesse qualcosa per andare in campo e rappresentare la maglia che ho indossato, unica maglia per tutta la vita. Sì, ma tu sei uno che, adesso non voglio fare, però sei uno che non ha bisogno di nessuno per prepararti al meglio le partite da tanti anni, e questo ti ha fatto diventare una delle seconde voci, la seconda voce storica, cioè voglio dire, questo è un fatto, sono molto personale, e detto questo è bellissimo sentire queste parole. Io volevo sapere, visto che la quantità di allenatori che l'Inter ha cambiato da Mourinho in poi è enorme, se secondo te dal punto di vista tecnico serve un uomo forte, cioè, perché insomma la sensazione è questa. È la storia, Pier, è la storia. Io ho vinto con Bersellini, che era un sergente di ferro ed era un uomo forte, ho vinto con Trapattoni, che era un uomo forte, che anche lui, che arrivava all'esperienza di Torino dove aveva vinto molto, insomma ha detto Milano è una centrifuga. Quindi si è vinto con Mancini, si è vinto con Mourinho, tornando indietro Herrera, che hanno avuto sempre grande personalità e gestivano quasi sempre tutto loro. Questo è indubbio. Ma io non posso pensare che chi c'è adesso alla Pinetina, che sta cercando di mandare avanti, parlo della dirigenza italiana che ha scelto Pioli, come ho detto prima, un vuoto di potere, perché questa distanza che c'è tra l'Italia e la Cina poi non permette di essere immediati, tempestivi nell'intervenire. Perché anche domenica, dopo la partita di Genoa-Inter, mi aspettavo che qualcuno andasse davanti ai microfoni a parlare in una maniera seria, convinta, determinata. Invece cosa fa? Mi mandi Medel che non parla neanche italiano. Capisci che c'è io dico vuoto di potere, perché manca qualcosa che possa collegare Italia e Cina. Quindi, più Simeone o più Conte, tanto per essere chiari. O più Spalletti. O più Spalletti. Ma io, allora, sento dire di Spalletti. Lo Spalletti a me piace tantissimo ed è un allenatore che prenderei domani mattina assolutamente, perché visto che i risultati che sta ottenendo a Roma, io vi seguo sempre, so che magari non siete d'accordo con me, ma Spalletti è vero che forse ha sbagliato, non so, la partita con il Porto, il Lione, così, ma cosa gli vuoi dire? In un anno e mezzo ha portato questa squadra a competere con la Juve in campionato, ha vinto un sacco di partite, la squadra anche domenica ha giocato benissimo, quindi è un grande allenatore. Conte è un grandissimo allenatore. E Simeone è la terza voce, insomma, il terzo allenatore che si fanno, insomma, dove vai a scegliere, esce, secondo me scegli bene. Uno di questi tre. No, su Spalletti, soltanto per dire, mille volte lo diciamo che è una presa enorme, anche abbastanza frustrante per Roma e Napoli, riuscire a tenere il passo della Juve, stanno facendo cose straordinarie. E la mia sensazione, poi vabbè, magari gli ha fatto una cosa su Totti, la mia sensazione è che in certi momenti, soprattutto da gennaio in poi, si sia un po' incartato dal punto di vista psicologico, dal punto di vista del rapporto con la piazza, perché un grande allenatore qual è Spalletti? Deve avere anche la forza, secondo me, in certi momenti di volare alto sopra certe polemiche. Cioè, quando dice una roba come quella che ha detto l'altro giorno da voi, o quella che ha detto da noi ha detto se faccio giocare 5 minuti mi dite che lo prendo per il culo, da voi ha detto mi sono pentito di venire qua. Ecco, cioè, sono cose che secondo me rischiano di destabilizzare l'ambiente ed è un peccato perché il valore tecnico di Spalletti e anche i risultati secondo me rimangono elevatissimi, cioè la capacità di autocontrollo è, secondo me per un grande allenatore è molto importante. Sì, diciamo che non è stato il massimo della vita l'aspetto della comunicazione di Spalletti, che pure è estremamente importante perché è un allenatore fatto anche di comunicazione dal famoso 7 gennaio in poi. Zio, ti rubo altri 30 secondi. Io ho ancora una domanda per te. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati. Siete tutti convocati. Arrivo, un attimo. Tutti convocati. Tutti convocati. Beppe Bergomi, un'ultima per me. Ti ho sentito scettico sulla scelta di Sabatini. Io prima dicevo, non può essere un tentativo di anticipare la ricostruzione o la costruzione da zero di una società. Si parla anche del ritorno di Oriali. Non ti sembra che questa mossa sia dettata da questa esigenza? Ma sai, supervisore di Suning, tu vuoi mettere che Sabatini poi non viva a Milano e si mette in contatto con l'Inter e possa interferire nel lavoro del responsabile dell'area tecnica che adesso è ausilio? Non lo so, io in questo momento mi sembra una mossa che va a delegittimare chi è già presente in società, secondo me, in questo momento. Poi lo reputo un professionista valido, validissimo, non metto in dubbio. Però in questo momento insomma la vedo così da esterno. Pensare anche che poi ci dovesse entrare anche uno come il mio amico Lele Oriare è un altro personaggio con grande personalità che non ha paura a prendersi le proprie responsabilità, quindi dopo diventerebbero tanti gli uomini, non lo so, io penso che in questo momento la vedo così, Carlo. Piera, l'ultima per lo zio. Se entrano Oriari e Sabatini, come si dice, qualcuno dovrà farsi da parte, insomma, può fare la verità cooperativa con 100 persone che si prendono di uno con l'altro. C'è un consiglio da dare a Totti che oggi ha fatto capire che potrebbe anche continuare a giocare. Tu sei anche da questo punto di vista, insomma, sei uno di quelli che si è inventato una seconda vita, no? Magari è meno divertente che scendere in campo, forse anche meno faticoso, però penso sia una cosa che ti dà comunque gioia e soddisfazione personale. Materia delicata questa, perché noi che viviamo a Milano tante volte non riusciamo a capire bene cos'è Totti per Roma, questo me lo dice sempre anche Fabio, e quindi diventa difficile. Io penso che bisogna trovare il momento giusto per smettere e per uscire di scena. Penso che ha tutte le possibilità di fare, visto che la Roma gli dà la possibilità di stare in società, quello che vuole, secondo me, Pier, dire a uno di smettere diventa difficile. Si deve rendere conto da solo, e capire. Io penso che sia importante, io lo dico sempre, chi gli sta vicino, chi gli sta intorno, di essere anche bravo a dirgli dei no e non solo dei sì, che tante volte non è facile. Quindi le persone che stanno vicino possono essere in questo momento determinanti per la scelta di Francesco. Grazie Beppe. Ciao, grazie zio, davvero Beppe. Un abbraccio. Ciao zio. Ciao. Pier, saluto anche te adesso. Dai, che... baci. Saluto Ricci, sentiamo... Torrentino. Sono allegra con Briccola a pranzo. Salutami tutti e prendi ci appuntamenti per domani da Madrid. Per domani. Va bene, glielo dico. Ciao Pierluigi. Bocca al lupo per la per Real Madrid, Atletico Madrid, derby che commenterai stasera. Antonio da Mantova, Lorenzo da Vicenza, poi un salto al giro. Antonio, buongiorno. Poi torniamo a parlare di Inter dopo il GR. Antonio, buongiorno. Dica. Buongiorno. Volevo niente, anzi io parlare già adesso di Inter, se non è possibile. Secondo me ha perfettamente ragione Pardo. Cioè, Pioli era lui che doveva mettersi in gioco, perché era già deciso che Pioli non avrebbe fatto l'anno prossimo, perché anzi se andava bene prendeva l'acquolina proprio al presidente di prendere un allenatore più europeo, e se andava male andava via in ogni caso, perché era, come è successo appunto, aveva fatto fallimento, ecco. Perciò Pioli secondo me era già, sapeva già come andava a finire, in una maniera o l'altra sarebbe stato esonerato. E più che Pioli, a me piacerebbe più Spalletti, però è sempre, devi vedere, importante ritornare a vincere, perché l'Inter, cioè, deve ritornare a vincere, perché non possiamo fare degli anni, cioè, così. Se lei deve scegliere tra Spalletti, Conte e Simeone, sceglie Spalletti? Spalletti, sì, perché a parte che Simeone non verrebbe in ogni caso, perché cioè, non lo vedo, ecco. Cioè, magari fra qualche anno, quando l'Inter... Ma io non vedevo neanche lo scenario che si è disegnato ieri sera, così tanto per questo, sì. Questo sia chiaro, sì, quindi certo. Il calcio e le sue dinamiche sono davvero molto strane. Comunque un voto per Spalletti, può essere che l'arrivo di Sabatini porti proprio in questa direzione. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma io volevo parlare di Totti. Io penso che devo avere il coraggio di smettere. Hanno smesso altri giocatori in tempo passato, mi ricordo Paolo Rossi, se vi ricordate, ha smesso addirittura a 31 anni, perché non riusciva più a giocare ed essere all'altezza. Beh, Platini a 32, se non ricordo male l'età. E quindi deve avere il coraggio di smettere. E potrebbe continuare a giocare in un'altra squadra per soldi, perché a questo punto solo quello potrebbe fare. E dopo, soprattutto, un appunto mio è questo. Io, a differenza di quello che dite voi, io non lo vedo come dirigente, perché per me Totti, da quello che conosco io, ovviamente visto in televisione, per me è e resta un cupone, per così dire. Non lo vedo intellettualmente. Non lo vedo intellettualmente. Secondo me lo sottovaluto. No, deve prepararsi, certamente non ci si improvvisa dall'oggi al domani, e abbiamo ampi esempi di questo, quindi... però la scuola può essere quella buona, ad esempio quella di Monchi. Piero Augusto Stasi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, abbiamo tre minuti per riassumere ciò che è successo ieri sull'Etna e quello che succederà oggi al Giro d'Italia. Sull'Etna è 0-0, scrive la Gazzetta dello Sport. Concordo col giudizio della Rose. Ieri il vento ha condizionato in maniera eccessiva la corsa, veramente non si poteva far nulla contro la montagna invisibile, nettamente più dura e più forte dell'Etna. Chi ha scritto che l'Etna non era una salita selettiva ha scritto una sciocchezza, perché nel 2011 ce lo ricordiamo tutti, è quello che seppe fare sia Alberto Contador che il povero Michele Scarponi e Vincenzo Nibali, che fecero una tappa bellissima all'attacco e scavarono dei bei distacchi, il gruppo si frantumò. Ieri non è più stato possibile, perché il vento trasversale, e poi nell'ultimo chilometro e mezzo contro la marcia dei corridori, ha bloccato ogni velleità di attacco. Ci ha provato Nibali con un attacco più dimostrativo, per verificare anche un po' lo stato di forma e soprattutto per vedere se riusciva a portar via almeno un gruppettino di una quindicina di unità, visto che erano più di 40 corridori in testa in quel momento. Quando ha visto che non riusciva a fare la differenza ed era duro a sfondare quel muro, che la sensazione è chiara, sembra di avere veramente un corridore attaccato, certo, alla sella, chiaro. A quel punto si sono ricompattati, si sono tenuti stretti, perché sennò volavano via, perché il vento era forte. Oggi cosa succede, Pier Augusto? Oggi il ciclismo ci insegna che magari nella tappa più banale, come quella di oggi, dove sono chiamati a esibirsi gli uomini jet, quindi i velocisti, da Greip al nostro Giacomo Nizzolo, speriamo, o Sasha Modolo, magari può succedere qualcosa di più, per mille più ragioni, però diciamo che la tappa oggi è molto banale, volata credo, speriamo e noi, che... e noi i grandi velocisti purtroppo non li abbiamo più. Ci fermiamo, grazie Pier Augusto Stasi, nostri occhi e nostra voce al Giro d'Italia. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo con di nuovo sull'argomento Inter e anche Juventus, anche questo strano intreccio, oggi pure Totti. Torniamo su tutto questo con una grande firma. Bene, allora siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere sui nuovi smartphone, le app, nuovi servizi web e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13:30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da... Al Servizio Sanitario Nazionale aggiungi Servizio Sanitario Personale. Vai su rbmsalute.it. Devo stare seduto in panchina a guardare. O vuoi entrare in campo? Ricominciamo tutti ai vostri posti! E andiamo! Convocati. Allora, mentre Luigi Garnando, prima penna della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il calcio, ieri sera stava scrivendo sulla prima pagina della Rosa Forte Gigi celebrando la Juventus, dall'altra parte del mondo succedeva di tutto per quanto riguarda l'Inter. Io lo saluto e lo ringrazio. Ciao Gigi. Ciao Carlo, ciao a tutti. E mi pregio di essere suo amico, pertanto gli chiedo subito di intrecciarmi queste due vicende, di darmi una chiave di lettura. Qualcuno io forse l'ho detto io prima, che hanno fatto apposta come coincidenza temporale. La Juventus si sta qualificando per la finale di Champions League e dall'altra parte del mondo, in Cina, decidono cambiamo tutto, rivoluzione. Sì, potrebbe, cioè, tanti l'hanno pensato un po' con malizia, anche perché poi nell'apoteosi della festa Juve tutti vengono attratti lì e tu insomma invece mandi via l'allenatore in modo che quasi nessuno se ne accorga. È una lettura, sì, che ci può stare, però non lo so, io credo che soprattutto la lettura del vicende dell'Inter possa essere interpretata in due modi, uno positivo e l'altro negativo. Positiva nel senso, sai, anche quest'estate ci sentivamo quando era ballerino Mancini, no? Mi ricordo che eravamo, io ero in vacanza e mi chiamavi e dicevamo le cose che possiamo dire adesso, cioè, dicevamo non si capisce chi sia la personalità tecnica, l'architetto tecnico di questa Inter, Mancini non sa con chi parlare, chiede dei giocatori, gli le danno degli altri. Ecco, in questo senso forse stanno mettendo ordine, no? Quindi ora c'è, cioè, Sabatini, si riconosce, sarà lui l'architetto, e quindi, e dicevamo anche, finché gli agenti saranno più importanti dei DS non si va da nessuna parte. chi è sempre uscito dai radar? Ora c'è solo un referente tecnico che è Sabatini. Forse arriva Oriali, che è un interlocutore per lo spogliatoio. Arriverà forse un allenatore più solido di quelli che ci sono stati finora. Ecco, l'Inter sta facendo la società e poi pensare ai giocatori. Non come ecco, questa scorsa che partiva questa, da Gabigol, allora, partiva Gigi, da Gabigol e non c'era bravo. Società. Partiva dai procuratori, dai nomi impronunciabili, spendendo un sacco di soldi per dei giocatori che quei soldi non hanno dimostrato di valerle. Però Gigi, io ti riporto le parole di Beppe Bergomi, il quale ha detto l'arrivo di Sabatini, secondo me, e poi se arriverà anche Oriali, crea un overbooking difficilmente comprensibile, perché chi fa cosa all'Inter? Chi farà che cosa? Andando anche a Ausilio è ancora lì, gli è stato rinnovato il contratto. Allora si tratta, siamo tutti d'accordo sul fatto che si debba costruire una società, che è la parte da cui Juventus insegna, si comincia a vincere. Però qui non quali saranno i ruoli operativi? Esatto, io ti ho detto la metà, che la lettura positiva, diciamo, che potrebbe essere questa, quindi figure che non c'erano, è sparito dai radar Chia, quindi non c'è più la gente che poreva i giocatori. La lettura negativa è quella che ha dato lo zio, che dicevi tu, negativa nel senso chi farà cosa, e soprattutto innanzitutto Sabatini è stato presentato in Cina, e allora lui stesso dice: io darò le stesse attenzioni alla squadra di Suning e all'Inter. È possibile dare le stesse, sono la stessa cosa, anche questo è preoccupante, no? Io adesso ti faccio il censimento delle cose negative, ma poi soprattutto le competenze. Allora, se Ausilio decide di essere il Massara della Roma per Sabatini, e quindi di avere un ruolo operativo concreto come ce l'aveva con Branca, e si lascia solo a Sabatini la regia, allora i ruoli sono già abbastanza distinti. Oriali diventa il team manager e può essere una struttura che funziona, dove ognuno fa le sue cose. Detto questo, arriverà un allenatore forte. Detto questo, Gigi, arriverà un allenatore forte, che pure sarà una componente mettiamo di cui tenere Conte, conto. Mettiamo che arrivi Conte, e quindi nell'asse Conte, Oriali, Sabatini è un'ossatura da grande squadra, con Ausilio che decide accetta di essere quello più operativo sul mercato. È una ottima struttura. Però io in queste ore mi sono arrivate anche telefonate dall'Inter, in cui mi si dice: no, attenti, che lavora solo per la Cina Sabatini, Ausilio fa quello che faceva prima, lui ha un contratto che riferisce solo al presidente, non cambia niente. Ecco, questo è preoccupante. Se cominciamo così, allora non se cominciamo così fuori. non con il piede giusto, non con il piede giusto. Adesso la rosa è ristretta a tre nomi, no? Ma per quanto riguarda l'allenatore futuro dell'Inter, giusto? Secondo te il più probabile sarà? No, io faccio fatica, veramente faccio fatica. Però quello è suggestivo, insomma, è nella testa di tutti, anche per un po' l'amicizia o comunque la sintonia con lo stesso Sabatini, che aveva cercato di portarla a Roma. Insomma, pensare a Conte, come ti dicevo, è un pensiero forte. Io non so, insomma, quanto sia possibile, però anche qua, insomma, si può ragionare su tutto. Poi lo stesso Spalletti, comunque, è una scelta di uno, insomma, che ha lavorato con Sabatini, che comunque è uno che alla Roma è arrivato e ha imposto regole, e qua servono regole, anche quella è una scelta. E poi da lì, insomma, vedere cosa le altre opzioni vanno a scalare. Certo, guardando questa Inter, due terzi dei giocatori sarebbe da imbarcare sulla prima nave, ma comunque... Con poco tatto, insomma, lunedì scorso ho scritto: se dobbiamo caricare i giocatori da Inter ad Appiano, basta un taxi e stanno larghi. Il concetto più o meno è questo. Gigi, invece, l'altro fronte, quello della Juventus, sei d'accordo con chi dice che la Juventus arriva da favorita? Io continuo a pensare anche che quel golletto preso da Mbappé, inutile ovviamente, fine della qualificazione, sia perfino un bel segnale per la cabala. Sì, io sono convinto. Poi sai, dire favorito in una finale sembra quasi un ossimoro, però ci arriva veramente solida, e ha una qualità che non aveva, per dire, offensiva che non aveva Berlino, ha la disperazione di gente come Buffon, che sa che questa è veramente l'ultima e la vuole quella coppa, e c'è anche gente esperta, no? Lo scrivevo stamattina, dicono non scendono in campo i trofei, palle, i trofei scendono in campo. Se sì, tu hai vinto tre Champions come Dani Alves, hai vinto tre mondialiti per club, ridi in campo, lui ride in campo. Ma gli sicuro, arriva quel pallone che spiove, lo tira come se fosse in allenamento. E invece come è sceso il Napoli al Bernabeu è un'altra cosa, quindi in finale ci saranno degli spalli da vittoria. Gigi, il Dani Alves che abbiamo visto nell'ultimo mese l'hanno piazzato sulla macchina del tempo, la famosa DeLorean, perché io non lo vedevo giocare così da 4 anni, in tutta onestà, esatto. E questo è un altro merito del gruppo di Allegri. Un'ultima cosa, io continuo a pensare che questa Juventus sia nettamente più forte, al di là di Pogba e Vidal, di quella che è arrivata in finale con paura e da sfavorita con il Barcellona. Un'ultima cosa, sempre oggi, non ci facciamo mancare niente, Totti, sì, non so se il 28 sì. Sarà il mio ultimo giorno. Sì, guarda, io su questa vicenda, a differenza di tanti altri in cui uno poi sfuma sempre, ho le idee chiarissime, cioè... ha avuto sempre ragione Spalletti nella gestione di Totti, perché deve pensare alla squadra. Ha sbagliato clamorosamente a San Siro, dove è stato assurdo, patetico, da rosicone non farlo giocare. Ma sulla gestione di Totti, quindi io ho sempre detto, finché Totti sarà più importante di Spalletti, la Roma non va da nessuna parte. Quest'anno Spalletti è stato più forte di Totti e ha fatto una grande stagione. Mi spiace, si è gestito malissimo il tramonto. Totti, non l'ho mai sentito in questa stagione, per esempio, dire una parola in un momento difficile della squadra, parlare da capitano anche fuori. Questo è verissimo, però anche sopportare anche il fatto di essere in qualche modo un po' umiliato, come lo era stato Del Piero, perché regalargli 5 minuti a partita finita, io lo trovo, continuo a trovarlo offensivo, eh. Sì, però c'era tutto uno stadio che ti invocava, potevi dargli nei 10, vincevi 3-1. No, ma non sto parlando di domenica, sto parlando del corso della stagione. Sì, ma per me insomma l'ha gestita con onestà Spalletti, e ripeto, è stato il peggior nemico di Totti, è stato Totti, secondo me, insomma, non doveva arrivare fino a qua, doveva anche pensare all'immagine che hanno i tifosi di lui. Sicuro. E quindi so che non è facile, cioè anche nella nostra categoria vedo colleghi che si accaniscono a stare nella professione, per cui non parliamo sempre degli altri, però ecco, per me è così, ecco, per me qua ho le idee abbastanza chiare. Grazie Gigi, grazie davvero, buon lavoro. Ciao Gigi Garlando, ciao. Giacomo Bagnasco al volo, perché oggi nella palla ovale abbiamo il disegno dei mondiali che non ci sorride più di tanto. Ciao Giacomo. Ciao Carlo. No, possiamo definirla una controipoteca, nel senso che abbiamo il sorteggio che riguarda i mondiali del 2019 per le squadre che si sono classificate ai primi 12 posti nel 2015. Quindi 8 posti andranno ancora assegnati, ma intanto abbiamo i gironi, e nel girone dell'Italia sappiamo che ci sono la Nuova Zelanda e il Sudafrica. Passano ai quarti 2 squadre ed è il girone peggiore di sempre per l'Italia dal 1987. Con questo mi sembra di aver detto tutto, mentre il Giappone, padrone di casa, ad esempio, è stato molto fortunato nei limiti del possibile, pescando l'Irlanda e la Scozia, mentre l'Inghilterra ha di nuovo un girone terribile con la Francia e l'Argentina, e Australia e Galles dovrebbero essere abbastanza tranquille con la Georgia. Visti gli ultimi chiari di luna, non so se Irlanda e Scozia fossero comunque alla nostra portata, certamente non lo sono le due avversarie che si sono state assegnate dal destino. Diciamo dal, che avevamo dal destino, un grado di difficoltà 10, con quelle, con questo sarà 15, cosa vuoi che ti dica? 15, 20, 25, 30. Ci sentiamo presto, Giacomo. Perché adesso devo andare a fare una celebrazione in questo mercoledì 10 di maggio 2017, in cui trasmettiamo in diretta da Tutto Food, e lo faremo anche domani con tutti i convocati. Abbiamo una, oltre a Juventus, Inter, Totti e tutti questi belli argomenti, c'è una celebrazione che è quella del primo scudetto del Napoli. No, non lo so perché, non chiedere com'è che io sento che quest'anno lo scudetto, non voglio neanche dire questa parola perché mi fa impressione, questo è l'anno buono, cioè, Vega squadra affiatata, vega squadra. Massimo, forte. Il Napoli l'ha già vinto. Già vinto il quando l'ha vinto? Come quando l'ha vinto? Beh Massimo, guarda che ora mi metti in imbarazzo. Il Napoli è campione matematicamente, pareggiando con la Fiorentina. Fiorentina. Cosa succederà alle 17.45 quando l'arbitro Pairetto fischierà la fine? Lo scudetto scenderà dal cielo con i paracadutisti. Una mongolfiera si alzerà da piazzale del plebiscito. Da stasera Napoli non sarà la città del sole, della pizza e dell'amore, sarà anche la città del tricolore. È un pezzetto di titolo, apparterà a tutti i napoletani che hanno sempre creduto in questo successo. Abbiamo vinto una scommessa. Sì, l'hai vinta perché me l'avevi detto quando sono Coppa Italia detto, sì. E quando sì, sarà questa. Comunque penso che sia una grande vittoria del Sud. Napoli, Napoli, Napoli, quei ragazzi nella curva B. Oh, oh, Napoli, Napoli, Napoli, lo striscione dice siamo qui. Presidente, lei è più scalmanato di tutti. Sono 18 anni, se permette. Diego, hai fatto un giro olimpico il tuo. Hai voluto salutare di persona questi tifosi meravigliosi. Che hai sentito? Che hai provato, Diego? La cosa più grande della mia vita, veramente, perché io ho vinto qualcosa, però campione del mondo. No, il problema è che non l'ho vinto nella mia terra, capito? Mi hanno tolto di festeggiare nella mia terra nel 78, per quello questa è la festa più importante della mia vita. 17.47, 10 maggio, Napoli campione d'Italia, Bianchi! Napoli campione d'Italia! Sono soddisfatto, abbiamo fatto un buon lavoro, sono 2 anni che facciamo dei sacrifici e sono soddisfatto. Li abbiamo risentiti un po' tutti, sentiamo chi era il direttore generale di quella squadra, cioè il nostro amico Pierpaolo Marino. Ciao Pierpaolo. Ciao, mi hai fatto venire la pelle d'oca a sentire queste. È venuta pure a me. Poi vorrei sognare Messi al Napoli, a vedere se fa quello che ha fatto Maradona, ma sono altri tempi e sono altre fissazioni mie. Senti, cosa succede oggi a Napoli, giorno di celebrazioni, cui ovviamente tu, da protagonista di quello scudetto, sei presente? Sì, succede che è la giornata del ricordo e in questo trentennale praticamente la città sembra come voler rivivere qualcosa che pensavano fosse un sogno, probabilmente eravamo tutti lì a capire se avevamo vissuto un bellissimo sogno o la realtà, e ricordarlo a 30 anni. Ricordarlo a 30 anni dalla vittoria dello scudetto, che poi dopo 20 giorni venne pure la Coppa Italia, quindi sì, diciamo un duplete. Come dicono in Inghilterra. Sarai lì, sommerso dalla folla, ti immagino sommerso dalla folla mentre sì, ti chiedono autografi e selfie. E foto soprattutto. Esatto, vabbè, d'altra no, parte sei una celebrità, che vuoi fare? No, non dimenticare che poi siamo venuti anche a ricostruire il Napoli nel momento più basso della sua storia in Serie C, quindi qualcosa nella città di Napoli abbiamo realizzato fortunatamente, e poi grazie a delle persone che su tutti, Italo Allodi che è stato un po' il mio mentore nell'esperienza napoletana e che oggi non c'è più, quindi dobbiamo ricordare lui, ricordare i dirigenti che ci hanno lasciato, come Dino Celentano, come Carlo Giuliano che era l'addetto stampa. E comunque il sindaco De Magistris ha avuto una grandissima sensibilità a invitarci in comune e a darci delle medaglie ricordo, che forse sono ancora più belle delle medaglie di quando abbiamo, che io conservo d'oro, di quando l'abbiamo vinto. No, potranno essere esteticamente più belle, ma quelle sono un'altra cosa. Sì, Pierpaolo, se ti chiedo dopo 30 anni fanno effetto. Sì, faranno effetto finché vuoi. tu riesci, immagino che la tua testa, la tua mente sia piena di ricordi e di pensieri, riesci a selezionarmi un istante di quello scudetto? Personale, una cosa tua personale. Guarda, la vittoria di Torino con la Juventus, perché era andato tutto bene fino ad allora, però la squadra non aveva ancora quelle convinzioni di poter fare quello che nella storia del Napoli non era mai stato fatto. All'inizio, al primo tempo, aveva segnato Laudrup e perdevamo 1-0, e Bianchi all'inizio del secondo tempo decise di mettere in squadra un'altra punta, e quindi di fare quel modulo che mai avrebbe voluto fare con i tre attaccanti, finora non l'aveva mai proposto, e facendo giocare finalmente ad Andrea Carnevale, il quale entrò, la squadra fece un secondo tempo trascinante e riuscimmo a vincere 3-1. Credo che fossero più di 20 anni che il Napoli non vinceva a Torino con la Juve, c'erano 20-25 mila napoletani, perché allora c'erano le trasferte di massa. E devo dire, quel cambio di modulo che poi rimase fino a fine campionato, e Carnevale fece 8-9 gol che furono decisivi, quel cambio di modulo e quella vittoria, proprio sul pullman i giocatori dicevano: allora quest'anno vinciamo, e lì veramente poi fu una volata verso lo scudetto. E lì hai capito qualcosa, ma d'altra parte è un po' la stessa cosa che ha fatto Allegri quest'anno. Avrei un sacco di cose da chiederti, lo farò nei prossimi giorni. Esatto, quindi è stato proprio una svolta tipo quella di Allegri dopo la sconfitta di Firenze. Bravo. Avrei un sacco di cose da chiederti, lo farò nei prossimi giorni, ti dicevo, perché non sono Napoli ma altri temi di strettissima attualità. Intanto grazie e buona festa, Pierpaolo. Grazie a voi, arrivederci. Un abbraccio forte a te e a tutta Napoli, a tutta la Napoli del calcio e non solo. Noi chiudiamo qui questa diretta da Tutto Food, ma torniamo domani, tutti convocati a Tutto Food. Ringrazio tutta la squadra di Radio 24, che è ampia, da Giorgio De Luca, nostro autore, che è rimasto in redazione insieme a Gianmarco Ferronato in regia. Qui in regia c'è Valeria Bernardi, qui con me Edoardo Lavezzari in redazione, Davide Ciocia ed Elena Ligios. Insomma, se avete tempo, siamo in fiera a Milano, veniteci a trovare, fate sto piacere. A domani. Abbiamo visto abbastanza. Ciao a tutti. Saluti.